La versione di Oscar Giannino. Per motivi tecnici, trasmettiamo la puntata del 1 dicembre 2017. Oscar Giannino torna in diretta domani. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Qui da, per fortuna, non c'è solo oggi a Milano, ogni tanto ci sia un clima che sia più in linea con la nostra stagione. Parliamo con una persona verso la quale io nutro una vera venerazione da molti anni, per quello che mi ha insegnato, per l'interesse multidisciplinare che ha sempre messo nell'azione che svolge. Ha fatto il professionista, ha fatto il professore, ha fatto il comunicatore pubblico, l'ideatore, il conduttore di trasmissioni, ha rivestito incarichi pubblici per il bene delle comunità. Insomma, è una persona straordinaria, che adesso ha scritto un libro che io spero vogliate leggere, perché è un libro che va al centro di alcune questioni fondamentali di ciò che siamo come italiani, di ciò che non facciamo bene come italiani nel mondo, di ciò che facciamo benissimo come italiani nel mondo, di che cosa voglia dire agli occhi nostri e di chi ci vede da fuori, perché lui ci vede un po' da fuori, essere italiani in questo cavolo di mondo, con la storia che abbiamo, con il patrimonio che abbiamo, con l'influenza che ha esercitato, ovviamente, perché institutions matter, cioè l'evoluzione degli ordinamenti fa il carattere di un popolo, non è che lo faccia il DNA, perché siamo ancestralmente votati a essere italiani, francesi e così via. Però è un libro il cui titolo dice tutto, perché dice: ho finalmente capito l'Italia. E l'editore è Rizzoli, e l'autore è questo polutropos, come si dice in greco, personaggio multiforme, multiverso, che è Philippe Delerio. Che in studio pure mi ha fatto questo triplice regalo di essere venuto oggi, quindi io sono qui che striscio. Io vi dico, cari ascoltatori, Philippe Delerio non vi devo dire, però ve lo dico, Philippe Delerio è un singolare pasto per capire l'Italia, perché lui è per una parte italiana, per una parte no, con un padre che si chiamava Napoleone, per di più, quindi insomma non proprio, insomma, nato in un posto bellissimo, per chi lo conosce, l'Alsazia, Moulin, che però è il centro della secolare contesa tra la Francia e la Germania, diremmo oggi, prima li avremmo chiamati in altro modo, ma è sempre lì, quindi siamo al centro di uno dei problemi che forgiano la storia, la cultura, ma anche le guerre, le stragi europee, e viene qua perché c'ha questa cosa che fin da giovane in Italia ha delle impressioni sbagliatissime da piccolo in Italia, perché pensa che noi siamo un paese di persone raffinatissime, siamo un paese con gli stemmi nobiliari sui piatti, ricordi là, e ovviamente affascinato dall'arte, dalla cultura, quindi che era la vita, sarà uno dei più strepitosi animatori dell'arte moderna negli anni 70, con gallerie di cui si ricorderà e tramanderà la memoria sempre nel nostro paese. Poi ovviamente cresce, ha fatto anche l'assessore alla cultura, anima molte iniziative civili, ma qui si pone un problema in questo libro e dà un giudizio, cari ascoltatori, secondo me troppo positivo dell'Italia. Ve lo dico subito, arriviamo a... ci sono un po' di capitoli e io poi finisco di questa introduzioncina e faccio solo domande e faccio parlare te. Gli pone alcune questioni, cioè pone la questione perché noi abbiamo dei principi mentre dall'altra parte hanno dei re nel nord Europa, perché per la nostra natura orografica ci abbiamo questo fatto che inglobiamo le case, le domus costruite prime, abbattiamo quasi niente, tanto la terra trema da sola perché c'è il terremoto, guelfi o ghibellini e siamo sempre avversari gli uni degli altri, va benissimo. La lingua italiana, questo è un fondamento per lui, io la penso un po' diversamente, però la lingua è quello che c'è. Dopodiché, che cos'è la patria tedesca, la Heimat, e rispetto al nostro campanile, che è tutta un'altra roba? Che cosa ci dice l'evoluzione, il tipo di urbanistica di Chartres e dei suoi mercanti rispetto a quelle di Siena? San Benedetto e l'Europa, altro. Il mattone, perché diavolo comprate tutti questi mattoni in Italia, per voi è meglio dell'oro? È questione antica, ci spiega lui. L'intellettuale organico, da Boezio a Gramsci, anche quella una stramaledetta maledizione di intellettuali che vogliono fare politica. Le due repubbliche diverse italiane, io tutta la vita avrei voluto seguire il modello della Repubblica di Venezia, ma qui gli intellettuali di marca francese, come un tempo Mitterrand, tifano sempre per la Firenze di Machiavelli, però la Firenze di Machiavelli è quella che ci fotte, caro Philippe. Dopodiché, cittadini e contadini, signori si diventa, l'ascesa sociale, qui mi ritrovo molto, il Sud, un bel capitolo su Sud che farà piacere ai meridionali, ve lo dico subito, lo stupor mondi da bellezza delle iniziative dei Borboni, non solo quelle culturali ma anche quelle economiche, e poi il giudizio sul Piemonte, che è un giudizio sul quale arriveremo alla fine. Allora, sintesi di tutti questi problemi, io però più che il re e il principe, io inizierei da una questione: perché l'italiano tu lo prendi per la vera cosa fondante, l'italiano come lingua? Perché in fondo l'italiano è l'unica cosa che unisce realmente l'Italia, e unisce l'Italia da prima di quello che spiegano a scuola di Dante. Cioè, l'Italia nasce come una sorta di curiosa associazione finanziaria inizialmente, dove mi ha sempre stupito la prima volta che le ho avute in mano le lettere di credito del 200. Sì. Guarda, prendere la lettera di credito del 200 in mano crea un'emozione infinita. Mi immaginavo questo omino che partiva con questo straccetto, però una sorta di straccetto arrotolato, e andava da Firenze a Bruges attraversando le montagne, affrontando lo svizzero cattivo allora come oggi. Certo. C'era già allora lo svizzero che dava la multa se uno che andava col mulo a più di 8 km orari attraversava lo svizzero, dava questo foglietto e in cambio gli davano un carico di lana. Qual è il mistero che c'era dietro? Cioè, come si faceva? Non c'era il fax per controllare, non c'era la fotocopia, cioè era tutta una questione fiduciaria. Questa formidabile questione fiduciaria si fondava sulle relazioni interpersonali, sull'uso della medesima lingua e sulla percezione di che cosa fosse quella calligrafia lì, perché con questi tre elementi che oggi ci sembrano assolutamente lontani da una verifica bancaria. Lungi da me il sottovalutare i grandissimi contributi che in termini di tecnica bancaria, credito a distanza, l'Italia ha portato nel Medioevo, dall'alto Medioevo in poi. Poi noi li conosciamo codificati nei documenti dal 200, sì, ma ce n'erano anche prima. Però il punto è, in Francia, in Germania, secoli prima si capivano parlandosi, noi abbiamo iniziato a farlo solo nelle trincee della prima guerra mondiale. Allora, attenzione, la differenza è questa: da noi quella lingua comune era la lingua di una classe medio-alta trasversale, e sono straordinari alcuni documenti che ho avuto la fortuna di consultare, per esempio sui rapporti fra la Firenze medicea e i piccoli potentati adriatici, quelli che si scannavano. Però erano le corti. E si scrivevano in italiano, che è comprensibilissimo, sì, va letto con l'accento. Cioè, basta leggere il testo che parte dalla Romagna, mov'è con l'accento romagnolo, e prendere quello fiorentino. Ma la scrittura è quasi la stessa. Cioè, l'Italia era psicologicamente unita dagli stessi affari. E vado anche a spiegare perché. Perché l'Italia amministrativa ad alto livello si fonda sul notariato. E il notariato viene sancito nel XIII secolo a Bologna, a tal punto che se si vanno a leggere le poesie della grande scuola siciliana poetica del 200 e del 300, scrivono in italiano, che sembra quello di Dante prima di Dante. Perché l'Italia è nella sostanza bancaria e notarile. Bancaria e notarile. E quando tradisce questa sua anima va in tilt. Purché sia chiaro che stiamo parlando di elite assolute. Cioè, certo, cioè, ripeto, ma per quanto lo slesiano, il bavarese, il sassone avessero anche lì profonde divisioni tra loro a capirsi, però quando la Germania si stermina nella guerra di religione e passa a fil di spada intere città, si capivano tra gli italiani? Ma no, si capivano i protestanti fra di loro, i cattolici no. Cioè, perché i protestanti avevano avuto un testo sul quale si erano formati, che era la Vulgata della Bibbia di Lutero. Hai detto niente. No? Cioè, fra pochi anni lui fa la prima traduzione del 21. Nel 21 la Germania può celebrare mezzo millennio di lingua condivisa. Comunque, mi hai convinto sul fatto che gli italiani, dal punto di vista curtenze, avessero una lingua da 200 anni. Però ho i miei dubbi che l'italiano, io insomma, in altre parole, quello che tu citi Hegel a un certo punto, cosa che mi fa venire i brividi, perché io temo che i franco-tedeschi abbiano ancora questa idea molto romantica della nazione. Io l'ho abbandonata perché mi ha condotto a verificare che ha prodotto tragedie. Cioè, la famosa formula manzoniana, una d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue, di cor, è la roba che porta alle trincee e non mi piace. E talvolta mi pongo la questione se tu non sei ancora un po' con questa idea. Ma sai, io non posso ritirarmi da una sorta di spirito unitario e romantico italiano, perché avendo un parente che è colpevole del pasticcio, già. Cioè, mi tocca difendere la famiglia. Ah, ecco. Cioè, il fratello mio trisnonno fece il segretario del Partito Popolare delle Cinque Giornate a Milano. E questo ebbe anche la responsabilità drammatica di tirare un barbone assurdo e a rifar politica tale Garibaldi, che i piemontesi non volevano più neanche che vedere. Che la vera chiave di questo episodio, che tu alla fine del tuo ultimo capitolo celebri il Piemonte, io del Piemonte sono piemontese, celebro, insomma, voglio dire, il fatto che fossero delle corti misurate nello spendere, per così dire, e in questo erano, non erano molto simili alle altre. Però poi l'episodio per cui diventiamo uno stato unitario è un episodio da late comer, si direbbe in economia, cioè ci siamo arrivati tardi, male, e per frutto del caso, non perché i Savoia avessero questo disegno. Cavour non ci credeva che questi bergamaschi pazzi riuscissero a portare, e non la voleva quella roba lì. Ma lì è come si fa, lascio intendere, ci sono due volontà estere congiunte che fabbricano l'Italia. Uno è Napoleone III, che si vuole togliere dai piedi sì. il peso politico del mondo austriaco. E questa cosa non ti dispiace, sì. dedichi anche sì. un commento esatto. alla foto equestre esatto. di Napoleone sì, no, III. Poi dedico un commento lunghissimo a questa statua che c'è a Milano, che vorrei venisse in un qualche modo ripristinata, venerata. Ecco, no, invece è stata messa è in un parco. È stata nascosta, perché ci sono i nomi di tutti i nonni italiani che fanno l'Italia. Questa è una parte. L'altra parte invece è quella britannica, che pensa che mettendo le mani sul meridione italiano riesce ad avere un'influenza maggiore all'interno del Mediterraneo, in un momento nel quale nel Mediterraneo il conflitto anglo-francese è centrale. E allora, però resta un fatto, quant'è la massoneria inglese definire, che sta dietro l'unità benissimo, d'Italia. Ma nel definire l'Italia agli italiani, dici che hai capito, finalmente hai capito l'Italia, ecco, questa nascita accidentale, che non ha niente a che fare con la lunga lotta tra francesi e inglesi, che è una roba che definisce l'idea su cui si fa poi con Enrico IV, la monarchia moderna, lo Stato in Francia, né dall'altra parte, tra le guerre di religione, l'idea di un Reich che in realtà è ancora decentrato, federale di piccoli principi, perché quella era l'eredità tedesca del Sacro Romano Impero, verrà centralizzato solo dopo la fine dell'Ottocento, ma anche lì è un'evoluzione che va avanti per secoli, radica l'idea di uno Stato moderno. Noi questa idea di Stato moderno non ce l'abbiamo mai avuta, è figlio del caso. Certo, perché è un prodotto importato, cioè l'idea della nazione unita è contemporaneamente un'idea francese e un'idea britannica. D'altro, l'esempio che do è il che è assolutamente ignoto e di cui vado molto fiero come banale scoperta, è che quando a Londra si fa la prima Expo universale, dalle quali nascono tutte le Expo, esatto. quella della metà del XIX secolo, c'è un padiglione c'è un Italia, padiglione Italia sì, cioè sì. per gli inglesi l'Italia, che non c'era, era considerata una cliente, quindi o una fornitrice, quindi l'Italia c'è già nel business. E siccome in questo senso gli inglesi riescono, avevano allora, ospitavano anche un signore che pensava nello stesso modo, Carlo Marx. Non so se è Carlo Marx ad aver messo il cartello Italia, ma sarebbe divertente in qualche modo. Difatti Carlo Marx spiega che le sovrastrutture sono conseguenza delle strutture di produzione. Le strutture di produzione della metà del XIX secolo hanno bisogno in Europa di un'Italia unita. Questa è la questione centrale. Questo e non di dare una allora vedi che stiamo definendo l'idea di una necessità di cui erano più convinti gli altri fuori per ragioni diverse, che era il gioco dell'equilibrio diplomatico dell'epoca. Ma noi, se non fossero stati stimati un po' ubriachi bergamaschi, i tifosi dell'Atalanta di allora, non avremmo fatto l'Italia. Allora, primo assunzione. L'Italia è un sogno su nordico. Su cui siamo d'accordo. Siamo d'accordo. È un sogno nordico. Seconda questione. I Guelfi e i Ghibellini. È d'accordo. Siamo un paese che viene da sempre identificato con l'idea che, insomma, gli avversari diventano nemici, gli esili. Secoli di storia così. Questa è la storia dei comuni. Ci inventiamo i podestà per fare gli arbitri terzi. Qui c'è un capitolo sul fatto che poi questa è l'idea di un manager moderno. Ed è giustissimo. Però questa idea non è che semplicemente ci siamo occupati di più e abbiamo più atti su cui studiare. Questa idea codificata che l'Italia ha i Guelfi e i Ghibellini, a me non mi pare che in Germania sia andata molto diversamente, perché se uno va a vedere quello che sappiamo della lunga transizione tra Sacro Romano Impero, guerra di religione che sconvolgono il panorama per decenni e producono un mucchio di vittime, anche lì, insomma, si passavano a fil di spada, non è che attenzione, sono molto più cattivi i tedeschi degli italiani. Da noi, come dico, lo faccio anche capire, gli scontri fra Guelfi e Ghibellini finivano in realtà con quattro coltellate, cioè non c'era bisogno del massacro complessivo, mentre Wallenstein, quando occupava una cittadina, cioè, ugonotta o protestante, ne eradicava la progenie, per così dire, li uccideva tutti, li buttava nel pozzo in modo che gli altri non potessero neanche tornare perché l'acqua era inquinata. Quindi, cioè, noi siamo sicuri che non siamo prigionieri di un luogo comune? No, noi siamo delle carogne buone, però innegabilmente carogne, sì, perché... E l'altra cosa che tento a far capire è che in verità uno non è che sia guelfo o ghibellino in Italia, uno è anti-ghibellino e quindi guelfo, oppure anti-guelfo e quindi però ghibellino. Questa è l'idea che ti piace tanto della Repubblica in salsa fiorentina. Se avessimo avuto un sano modello oclocratico con il libro della nobiltà chiuso e ogni tanto lo si riapriva se uno pagava, come era la Repubblica Stranissima, saremmo stati un paese molto più civile. Vi piacciono i Machiavelli ed ecco qua, cari intellettuali. Io vi do tre esempi di aggregazioni diverse del rapporto fra oligarchia e Stato, che sostanzialmente la questione centrale dell'Italia ancora oggi è il rapporto oligarchia e Stato. Uno è Venezia, con la serata del Maggior Consiglio, in cui dice: questi sono i nostri, nessun nuovo può entrare, ma nel frattempo quelli che stanno dentro nel numero cominciano a diventare poveri, quindi hanno una sorta di nobiltà che produce la sua classe povera. I fiorentini fanno l'opposto, dicono: no, la nobiltà non entrerà mai nelle arti, però poi quelli che sono nelle arti diventano così ricchi che diventano nobili. E poi c'è il terzo sistema, che è quello milanese, quello della famosa matricola del Duomo, per cui chi è legato al Duomo di Milano fa la storia di Milano. Sono tre modelli completamente diversi, ma sono tutti e tre modelli non monarchici. Sono tutti modelli non monarchici, in questo primo capitolo sono, si spiega, tutti tendenzialmente oligarchici. Alla fine la vera democrazia è una roba che agli italiani non gli viene naturale. Cioè, questo permette una cosa che non ho osato sportare a termine da scrivere, poi uno po' troppo radicale, non, la conclusione. È uno strumento che uno deve usare per ragionare lui, certo, non per seguire il mio ragionamento. Ma la vera questione italiana è che ci manca oggi quel prodotto delle oligarchie, che è la prominenza sociale. Cioè, l'Italia ha sempre funzionato nelle sue strutture locali potenti perché generava una sorta di prominenza sociale, gli ottimati. Poi fra di loro si menavano anche, ma tiravano dietro a di loro tutta la struttura. Sei sicuro che oggi manchino? Semplicemente ci sono, io credo che ci siano, poi te dico anche quanti, ma lo vedo dai numeri economici, semplicemente non si occupano della vita pubblica. Ah no, certo, no, ci sono gli ottimati anche oggi, si occupano di fare affari, si occupano di fare di portano di l'Italia fare nel mondo, cioè non hanno alcuna stima di perdere tempo nelle cose pubbliche. Sono protagonisti mondiali, da quelli che fanno il design a quello che fanno gli affari, quelli che fanno la finanza, cioè ce n'è di ogni genere. Però non hanno più questo sentimento di ancoramento territoriale, quello che spiego col campanile. Esatto. Cioè, in Italia il crollo del campanile è una catastrofe, nella sostanza. Era forse, perché adesso un po' meno. Sai, c'è stato un segnale forte, molto preciso. Subito dopo l'unità d'Italia, cosa viene come cosa prima? Una grande pulsione per la speculazione immobiliare. E si buttano giù le mura di Bologna, si buttano giù le mura di Firenze. I milanesi aspettano un po', per fortuna li bombardano e nel dopoguerra buttano giù le mura spagnole di Milano. E questa rottura questa rottura della cinta storica delle città, in qualche modo, è un effetto psicologico, comincia a delegittimare quella che è la prominenza, certo, cittadina, che non è un fatto aristocratico necessariamente o nobiliare, sarebbe un gravissimo errore, è un fatto di partecipazione ai destini della comunità. Questo ruolo straordinario, in fondo noi questo esempio l'abbiamo ancora avuto con il grande sindaco del dopoguerra, che è Greppi. Certo. No, Greppi è un prodotto della storica prominenza milanese, che prende le sorti della città in mano, che ha un figlio che addirittura muore ancora da partigiano, cioè era quella roba lì. A noi ci manca una parte alta. Allora, qui adesso noi ci dobbiamo interrompere per il primo blocco e riprendiamo tra poco, però subito in continuità a questo ti faccio già la domanda, perché riprendiamo di qui. Proprio in ragione di quello che dici, non c'è più la prominenza, il fenomeno che produce la prominenza che ha una radice storica di profondo radicamento, salta, ma c'è anche poi una prospettiva di riconoscimento reciproco del prominente e di ruolo attivo nella vita pubblica. Però uno dei capitoli in cui c'è il tuo percorso a tappe, per dire che è Capitolo Italia, è proprio quello che dice Signori si diventa, cioè l'ascensore sociale, spieghi qual è. Ne abbiamo già parlato dei tre diversi modelli, ma arriviamo all'Italia di oggi, però riprendiamo di qui tra un minuto, intanto andiamo a vedere che cosa succede in borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Quante cose avete da fare in tutto il giorno, quante corse, quante cose a cui pensare, poi arrivate a fine giornata e vi accorgete che siete rimasti fuori dal mondo. Nessun problema. Alle 21 in punto, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, accendete su Radio 24, rilassatevi e lì arrivo io, Roberta Giordano, che con il mio effetto notte vi racconto con tanti ospiti, approfondimenti, le notizie più importanti del giorno dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non potrete dire «io questa non la sapevo». Per motivi tecnici stiamo trasmettendo la puntata del 1 dicembre 2017. Oscar Giannino torna in diretta domani. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati con il nostro, insomma dico il nostro perché io vi associo, cari ascoltatori, nella devozione, nel ringraziamento, e se non la pensate così, secondo me state sbagliando, accettate ogni tanto che vi dia un giudizio di questo tipo, verso l'ospite che è in studio con noi oggi, Filippo Daverio, per parlare di questo suo libro Rizzoli, Ho finalmente capito l'Italia. Come avete capito è una carrellata, troverete oltretutto come sempre nei libri di Filippo un apparato iconologico meraviglioso, molte opere d'arte che sono intessute nelle citazioni che servono a dare forza agli argomenti di questa cavalcata nello spirito e nell'essenza di che cos'è l'Italia nella storia, di che cos'è oggi e cosa può diventare. Abbiamo già visto alcune di queste questioni, ci eravamo fermati su uno dei temi fondamentali, sulle classi dirigenti italiane, dei tre diversi modelli di selezione nella storia, insomma, che ci sono stati nel nostro paese, uno in mente Firenze, la Repubblica Veneziana, Milano. Però c'è un capitolo che dice l'Italia è un punto di forza, perché in Italia signori si diventa, e c'è l'idea dell'ascesa sociale, no? Sì, ecco, l'Italia è l'unico paese in Europa che, non avendo la radice culturale e antropologica barbarica, quella per la quale il cone, quello che può e quello che sa, diventa re e è in un qualche modo geneticamente destinato a quel principio, l'Italia è un paese che dalla radice romana ancora apre la strada a chiunque. Cioè chiunque ce la vuol fare, ce la può fare. E quindi, e se riesce poi a farcela bene, genera anche per un certo periodo una piccola dinastia. Questa piccola dinastia sopravvive finché può sopravvivere, perché un altro signore può partire dal nulla e farsi. In Italia signori si diventa, che è una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria. Cioè, è il paese che nella storia d'Occidente ha l'ascensore sociale più facile che esiste. Io no? Ricordo sempre che uno ha l'idea, magari molti di noi, dei nostri ascoltatori, ci scrivono: ah, caro Oscar, ma tu sogni il mondo anglosassone dove c'è l'ascensore del merito. Attenti, attenti, attenti. Quanto agli Stati Uniti, dove c'è da sempre il melting pot e anche quella del merito disinvolto, cioè i Robert Barons che hanno fatto il capitalismo americano non erano proprio gente che veniva dal basso e sapeva stare a tavola, cioè usavano tutte le armi possibili, comprese quelle illegali. La Gran Bretagna non è così. La Gran Bretagna vittoriana è un posto, è un paese che resta di un classismo assoluto. Posso dire la differenza? Allora, le tre differenze europee sono: i francesi sono classisti perché se hai l'accento giusto della scuola giusta apparterai per sempre al mondo giusto. Se non hai quell'accento lì, non entri nel giro giusto. Gli inglesi non è neanche un fatto di accento, perché l'accento te lo insegno da bebè. Gli inglesi sono razzisti, che è una diversità. Cioè, i francesi sono classisti, gli inglesi sono razzisti, gli italiani sono aperti. Non do giudizi di merito. No, è l'evoluzione, per così dire. Cioè, se in Inghilterra hai quel tipo di antenato lì, sei già predisposto a fare quel tipo di scuola, avere quel tipo di allora carriera. Allora perché, Filippo, avendo questa caratteristica storica, da noi signori si diventa rispetto al classismo rigido o il razzismo imperiale, le classi dirigenti italiane oggi sono quello che sono? Perché abbiamo flippato, adesso non voglio mettere, io per fortuna mi sono fermato raccontando, sì, con prudenza, sì, mi sono fermato prima della prima guerra mondiale, quando il carattere si comincia a formare. Poi quello che è successo dopo è molto complicato, cioè abbiamo avuto dei momenti molto difficili e dei momenti nei quali abbiamo optato di nuovo per una sorta di populismo trasversale. se dovessimo dire la verità, e non, questo non l'ho osato scrivere, io credo che l'Italia viva circa da una trentina d'anni nella cultura della parodia. Cioè la parodia è che ognuno non è ciò che è, ma è la copia di un'altra cosa. Basta pensare a quanto alcuni personaggi sono discendenti da Gino Bramieri piuttosto che da Renato Rascel, altri siano discendenti dai comici toscani. Cioè gran parte dei nostri politici sono prodotti evolutivi dei comici preesistenti. Abbiamo raggiunto il punto apicale che addirittura il comico stesso è diventato protagonista. Allora l'Italia vive un periodo che passerà alla storia come l'epoca del trash, perché la semplificazione massima del messaggio, che è tipico della commedia e della parodia, consente al messaggio di andare molto lontano. Il messaggio complesso ha una corsa breve, il messaggio semplice ha un percorso lontanissimo. Il messaggio semplice però è un po' come il sonno della ragione, genera delle bizzarrie, e l'attuale storia italiana andrebbe analizzata in modo diverso da questo, proprio usando però, se si può, alcuni di questi strumenti. No, io li userei quasi tutti. Però se dico che la storia dell'Italia è fondata sulla funzione delle élite, e allora uno dice: ma oggi dove sono le élite? E dico: non ci sono, è proprio per quello che l'Italia è nella situazione nella quale si trova. Allora, la mia tesi è un pochino diversa. Io sono convintissimo, guardando i numeri dell'economia italiana e guardando l'articolazione che si avverte nelle città, nelle università, nelle start-up, delle imprese. Insomma, di elite italiana ce n'è come. Cioè, l'elite italiana sono sulle 216.000 esportatrici, le 40.000 che stanno nella parte medio-alta delle catene del valore, le 7.000 del quarto capitalismo di medio-basso. Quella roba lì che ci fa 500 miliardi di export. Esatto. È quella roba lì. Ma non fa politica. E lì c'è fior di gente, sì. Manager, tecnici, non sto dicendo gli imprenditori. Tutti, il capitale umano più redditizio che abbiamo, meglio formato, coccolato, riformato all'interno delle aziende. Quindi lì c'è, e ce n'è di una qualità, posso dire, in molte classi e settori, battiamo i tedeschi e posso, i francesi. Posso, però ti spiego subito. Quelli sono tutti prodotti del lavoro. Sì. Non della speculazione. Sì. Sono figli del prodotto. Non c'è dubbio. Vincono le scommesse mondiali perché portano e non la hanno roba... una cultura monopolista, no, perché quelli no. Per stare nel mondo devono fare li trovi all'aeroporto al mattino, che vanno in paesi lontani con la borsetta, dove non hanno la protezione dello Stato. Non hanno neanche quindi le elite ci sono pure numerose. Capaci di fare le robe per conto loro, perché però sai, di per, questa tua Italia letteraria perché hanno letto bene la Costituzione. In che senso? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ah no, in questo senso qua. Però il problema... Però sono solo loro ad averla letta la Costituzione. Che l'illusione letteraria di un'Italia manzoniana, risorgimentale, gobettian, gramscian, togliattian, eccetera, eccetera, a questi qua. No, non gliene può importare di meno. Questo non lo sanno, ma ce l'hanno nel sangue. Ma ce l'hanno nel sangue come una malattia o ce l'hanno nel sangue come un anticorpo? No, ce l'hanno nel sangue come un contributo alla pulsione energetica. Ed è il motivo per il quale gli va bene l'articolo 1 della Costituzione, che è il risultato del percorso che hai citato. Il percorso che citi finisce con l'Italia, una repubblica fondata sul lavoro. Loro il hanno padre costituente. Esatto, loro hanno un'esistenza fondata sul lavoro. Ma quando fanno così, non lo sanno, non c'è motivo che lo sanno, però se comprano un libro li aumentiamo il buon umore. No, ma questo io infatti loro sto parlando. Perché, questo libro vi serve. Li aumenta il buon Bisogna umore. Bisogna ricondurli all'idea di dover fare i conti con ciò da cui veniamo. Esatto. Allora, loro si rendono conto che sono discendenti diretti della Repubblica Fiorentina, dove si era fondati sul lavoro. Se non si era iscritti in un'arte, non si aveva neanche il diritto di far politica. Allora, questa è una roba molto particolare. Certo. Nessuna parte d'Europa ha mai avuto una percezione così precisa del rapporto fra lavoro e potere, se non marginalmente le repubbliche anseatiche. Però che era molto diversa l'idea di Gilda medievale, vive nel germanesimo, non è la partecipazione alla vita pubblica. No, infatti do un esempio abbastanza bene sia sulla Francia di Chartres che sulla Germania, che si lavora, ma si, perché però c'è la monarchia centrale. Da noi no, il lavoro è centrale, la partecipazione. Però senti, tu in questo io lo so che tu in realtà sei un libertino, sia pure solidale con l'umanità, ma sei un libertino imprevedibile, e quindi ai libertini imprevedibili insomma il calvinismo lo riconoscono, ma gli pone qualche problema nella vita. Ma questo fatto di non avere mai avuto una disciplina di rigore pubblico, perché il calvinismo non è solo un'idea della grazia, dell'anima, di come si entra rispetto alle opere o meno, è un'idea di rigore pubblico. Questa roba tu nel libro mi deludi, non c'è, perché ti piace l'Italia del casino, questa è la verità vera. Non esiste rigore pubblico nell'Italia. Non esiste. Quando dico signori si diventa, cioè il Cosimo il Vecchio governa Firenze senza avere titolo. Governa il Consiglio dei 100, poi diventerà quello dei 500, governa senza avere titolo. Come? Perché in un qualche modo finanzia tutti, li controlla tutti. Beh, allora, capisci che è una tecnica che è rimasta in Italia. Sì, una tecnica che è rimasta, ma a quel livello lì no. Cioè, perché lui lo fa poi con una... La corruzione senza avere Cosimo. Esatto, il problema di fondo è che noi abbiamo le caricature di Cosimo. La caricatura, sì. Così come abbiamo la caricatura di Lodovico il Moro. Cioè Lodovico il Moro governa de facto il Ducato di Milano, anche se il Duca vero è lì ubriaco, che sta fuori città a Vigevano, no? O a Pavia, secondo come si sposta per andare a caccia. Il potere rimane qua, Lodovico lo gestisce. Perché in Italia non conta l'autorità, conta l'autorevolezza. La crisi italiana di oggi si riassume in un dato unico, una sostanziale crisi delle autorevolezze. Se si risolvesse quella, sì, si insomma, può il sistema sta vecchio, per dire, ecco, scusa, faccio un esempio che non c'entra con la politica, ma dall'idea, sì, perché sì, poi è un problema trasversale delle rappresentanze della classe dirigente italiana. Vive un po' meglio nei livelli locali, perché i livelli locali ancorano direttamente a dei modelli antropologici sedimentati. I sindaci funzionano meglio dei governi. Cioè c'è una lunga durata che lì persiste meglio. Facciamo un ragionamento. Quanto hanno funzionato i sindaci di Milano per fare Milano? Vero. Quanto hanno funzionato quelli di Torino per fare Torino? Quelli di Genova per fare Genova? Cioè quanto, e poi è facile andare anche a fare un'indagine, se prendono gli esempi singolari, li analizziamo come se fossero delle mosche o delle formicone, la entomology, e scopriamo che le città che funzionano sono quelle che hanno ripristinato la figura o ducale o... dogaresca, che era il riferimento, e i sindaci hanno lanciato delle proposte. Allora ci fermiamo qua per le città e riprendiamo esattamente di qua. Adesso andiamo a vedere che succede sulle strade. Per motivi tecnici stiamo trasmettendo la puntata del 1° dicembre 2017. Oscar Giannino torna in diretta domani. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in Clip d'Aereo. Comprate e leggete il suo Ho finalmente capito l'Italia, cavalcata nei temi fondanti storici, artistico, culturali, ma pubblici, politici, ecco, del problema italiano. Non c'è questione di partito, come votare, c'è una riflessione lunga degli elementi che ci formano e ci pongono qua. Siamo arrivati al punto in cui nelle città vive di più, meglio che su questa scena nazionale bruttata dalla parodia da 25 anni, dalla parodia di modelli che invece bisognerebbe innovare, e insomma la parodia è un genere comico di serie B, ecco, ma invece nelle città vive uno spirito diverso, più continuità. Un tempo si pensava che di là poteva venire la grande spinta all'Italia, poi si è un po' affievolita anche nelle città. E adesso? Il mondo delle donne. Oh! Il mondo delle donne, contrariamente all'opinione pubblica trasversale, e l'unico che lo capisce bene è stato Aznavour quando fa la sua canzone La mamma, è morta la mamma. Contrariamente a quello che si crede, le donne in Italia svolgono una funzione importante nelle parti della società evoluta, cioè quelle urbane. Quelle urbane. E lo fanno dal cuore del Medioevo. Se pensate al ruolo che svolge Matilde di Canossa contro l'impero, il ruolo che svolge Adelaide di Piemonte, che ha il primo... Adelaide di Piemonte, sei solo tu che la ricordi, mi ha colpito, mi ha anche commosso. Dovrebbe però aver commosso. Penso che chiunque in Italia si laurea, ma non di qualunque cipè, non sa chi sia. Adelaide di Piemonte è la prima che avanza l'ipotesi unitaria. Oggettiva, esatto, dell'Italia, facendola partire dal Piemonte. Cioè il suo seme del XII secolo si svilupperà nel XIX. Allora, ma queste non sono personalità marginali. No. Se penso alle grandi personalità che stanno dietro, ma stimolano la politica negli anni del Rinascimento, dietro a Ferrara, come quelle che sono un po' in odore di protestantesimo, come la Vittoria Colonna e così via. E se arrivo poi alle figure ottocentesche, soprattutto in ambito risorgimentale, che sempre gioioso, la contessa, no, ma cioè, scusate, mi viene da tossire dall'emozione. In Italia la donna gioca un ruolo straordinario, esatto, fino all'Anna Kuznetsov. Poi nella fase attuale di neopopulismo patologico, quella che viviamo da 30 anni, le donne invece hanno perso questo ruolo, sono tornate ad essere delle macchiette paraerotiche. Sì, ma perché? È perché ha vinto in Italia la parte contadina contro la parte cittadina. Ha vinto l'esaltazione, mentre la parte cittadina celebra l'aggio, la parte contadina celebra l'opulenza. Sono due realtà completamente diverse. Cioè, per il cittadino l'aggio va controllato con le leggi delle quali parlo, che sono le leggi suntuarie, che hanno un'origine nella Roma antica, ecco, no, che doveva preservare i costumi dei padri fondatori, esatto, che vanno a rigenerare le normative veneziane, milanesi, fiorentine. Questo mondo, c'è addirittura la disciplina di quanti dovevano essere i bottoni. Sì, esatto, questa cosa incredibile che genera la cultura dei Cives. Invece il mondo contadino non c'è. In questa fase l'impressione che ho io è che la parte contadina abbia vinto sulla parte cittadina, e quindi l'opulenza sia una cosa da celebrare, anche in un qualche modo uno sfarzo grottesco e esagerato, sì, sia costantemente legittimato, mentre quella vecchia dicitura milanese, ma la sesta del vinca gaduma fai danè, cioè è una roba che è scomparsa dalla concezione, perché per il cittadino la prima funzione era quella della propria funzione stessa all'interno della struttura della comunità, e poi se stava bene era molto meglio, attenzione, cioè, ma se uno vede il vecchio detto milanese, var del ben, var del tut, l'om senza Daniele è proprio brutto, esattamente. Adesso non eccediamo, sennò poi lo ci ascolterò l'altra giorno, non capisco e ci perdiamo per strada. Però voglio dire, se uno guarda con un occhio contemporaneo e sincronico, non è che Francia e Germania non corrano dei rischi, non ci siano linee di faglia molto profonde, visto che qualche mese fa temevamo che alle elezioni potesse una signora cambiare in qualche modo. Cambiare non lo so, far ritornare la storia di Francia ai tempi dell'Action Française, più che altro. Sì. Quindi non era una cosa. Molti dicono che è un germe nuovo. Ci sono fiumi carsici nella storia, secondo me, e quella francese. No, la Francia ha quella linea, ecco, popularesca, ecco, che è quella sulla quale, attenzione, si fonda il colpo di Stato di Napoleone III, perché lui vince le elezioni a metà dell'Ottocento grazie al voto contadino. E c'è un libro bellissimo che non è mai stato tradotto in Italia, e dovrebbe un giorno, magari da vecchietto lo farò, che appare due anni prima del Carlo Marx, e lo fa Jules Michelet, si chiama Le Peuple. Grandissimo libro. E fa l'analisi della Francia, dicendo la Francia è fatta di contadini. E i fondi contadini. E anche lì nella storia hanno contato molto. Quindi attenzione, come vedete, che tu addirittura di avere non è una roba che in Italia adesso provare a quella contadina. Nella storia europea è una roba che torna, e torna di solito portando fenomeni di un certo peso, per così dire. Il concetto tedesco del Bauernkrieg, della guerra dei contadini, esatto, che va avanti attraverso ancora oggi la espressione di un'etica, ma che è alla radice, per esempio, di una parte del percezione nazista anticittadina. Esattamente, cioè, perché il culto del Blutenboden, sì, esatto, la terra del sangue, sì, viene da quello. Esatto, Blutenboden è uno dei meccanismi che porta all'incendio del ghetto, perché il ghetto è cittadino, mentre il contadino è lì con le sue mucche. Cioè, questa conflittualità fra città e campagna, che poi curiosamente il più grande genio che la individua è quello strano personaggio che è Mao Zedong. Ma in Cina è diverso, ma non è poi tanto diverso. Questa distinzione c'è. Pensate a quanto è stata importante questa distinzione, per esempio, nelle elezioni di Donald Trump. Ah, certo. Pensate quanto è importante nella definizione del Brexit, dove la parte per campagna non intendo poi più soltanto chi sta con le mucche, che oggi sta molto bene perché sta in un romanzo, ma per campagna intendo anche chi è condannato ad una vita molto povera per certi versi, di Liverpool. La storia italiana, quella che su questo da un capitolo che quello che mi paragona. Andiamo a vedere Chartres e Siena, no? Chartres, grande cattedrale, ma per il resto le case di quella che diventa poi la borghesia, eccetera, sono più o meno tutte uguali, simili. Cioè, graticcio per tutti, esatto. Mentre in Italia hai fatto soldi, torri, cioè, sì. Una selva di torri. Noi dovremmo avere un DNA accumulato nei secoli proprio su questo aspetto, nel frenare il ritorno travolgente su cui spesso leader politici o di fazioni soffiano per far ritornare gli spiriti premoderni, contadini, boom, che spaccano tutto e rompono, sì, sulla, sì, scena. E invece, tragicamente, siamo diventati l'esempio nel mondo da 25 anni invece di un paese in cui i leader sono così. Sì. È un po' strano, ti dà, certo, torto, certo, questa roba qua. Il leader cittadino che ci insegna la Venezia, la Firenze, anche la Perugia e la Milano del passato e la Genova del passato, non ce li abbiamo più. Oh. Per questo, a mio parere, prendere coscienza è utile. Prendere coscienza è utile. Dopodiché, quelli come te all'università devono portare i ragazzi giovani, eccetera, eccetera, a ricrederci nel fatto di battersi per la vita civile. Perché non ci credono più. In un mondo straordinariamente più ricco per loro, non più povero, avete i tanti Filippo davvero come maestri. Credeteci, questo è il messaggio della chiusura noi di questa trasmissione. Funzione, non solo io ce l'hai, anche tu ce l'hai, la nostra generazione. Ma io sono un povera imbrata carta. Noi dobbiamo corrompere lo spirito dei ventenni. Corrompere lo spirito dei ventenni perché facciano la festa ai quarantenni al potere. Questa è la grande patto che vi proponiamo, cari giovani ascoltatori. Grazie a Filippo Daverio. Leggete questo libro meraviglioso. Ho finalmente capito l'Italia. Rizzo l'editore. A domani. Per motivi tecnici abbiamo trasmesso la puntata della versione di Oscar del 1 dicembre 2017. Oscar Giannino torna in diretta domani.